9 in punto. Mi scrive qualcuno su Twitter questa mattina: vi prego, ditemi dov'è l'uscita, voglio smettere. Oggi parliamo di tasse, abbiamo deciso di parlare di tasse e tornare su un nostro tema classico, se volete, ma non solamente di quello. Mi vorrei concentrare ancora una volta, proprio perché vogliamo che il problema sia all'attenzione, al di là della questione della pressione fiscale, che pure affronteremo, perché ci sono dei dati interessanti, uno studio interessante secondo il quale c'è, dalle manovre del governo Letta di questi ultimi mesi, c'è un effetto fiscale positivo e immediato che consiste sostanzialmente nella riduzione dell'IMU, nell'eliminazione dell'IMU, ma ci sono degli effetti fiscali negativi nel 2014, nel 2015, negativi intendo negativi per noi cittadini, per noi contribuenti. E però voglio soffermarmi e voglio partire soprattutto dal tema dell'incertezza. L'incertezza fiscale, come sapete, è una mia fissazione. Mentre il governo prepara un piano che si chiama Destinazione Italia per attrarre gli investimenti esteri, forse bisognerebbe fare qualcosa per mantenere gli investimenti italiani qua. Saluto dunque come primo ospite Giuseppe Caggiano, che è imprenditore dell'Artigiani del Marmo di Carugo. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori e a lei. Siamo in provincia di Como, frontalieri, no? Caggiano. Sì. Direi frontalieri. Allora, la settimana prossima, alla fine della settimana prossima, c'è un incontro organizzato dal comune di Chiasso per salutare, no? E per illustrare agli imprenditori italiani quali sono i vantaggi che possono trovare in Svizzera, e non solo ha fatto il tutto esaurito, ma ha raccolto più adesioni di quante se ne aspettassero, no? Perché si aspettavano 150 persone, gli iscritti sono 178. Lei è tra questi iscritti, no? Sì. Perfetto. Lei che cosa fa? Cosa fa esattamente la sua azienda? La mia azienda si occupa, diciamo, di tutto quello che è il lapideo, diciamo, la lavorazione del marmo, granito e pietre, ormai da 53 anni, perché l'ha fondata mio padre, che è venuto dal meridione. Soltanto che io, avendo figli piccoli, diciamo di 20 anni, che io li chiamo piccoli ancora, che lavorano in azienda, non vedo un futuro per loro, non per me, perché io ormai a 46 anni, diciamo, le radici ce le ho ben saldate qua, a Carugo. E quanti dipendenti abbiamo ha lei? 5 dipendenti. Avete 5 dipendenti. Più 4 noi di famiglia, siamo 10 persone. Quindi di fatto lei va a Chiasso a questo incontro illustrativo, ma in realtà con un'idea precisa già in mente. Sì, quello di capire realmente se la mia azienda, come azienda, non come famiglia, può lavorare vicino casa e avere dei privilegi, diciamo così, che l'Italia in questo momento non ha capito se ce li può dare o no. Il problema è proprio questo, il problema è che non l'ha capito, no Caggiano? Mi sembra questo il punto. Cioè, non è tanto... sera, guardando la tele fino all'1:30 di notte, diciamo che sono andato a letto, non mi sono venuti gli incubi, non so come mai. E come mai? Cosa ho visto? Presa diretta. Ero stanco del lavoro della giornata. Cosa ha visto? Presa diretta, poi Vespa, cioè ha fatto un overdose. Li ho visti tutti. E come mai gli incubi? Come mai? Perché ho visto quegli operai dell'Ilva disperati. Proprio, al pensiero di vedere operai, quindi anche i miei dipendenti, a doversi disperare un domani perché la mia azienda non potrà più andare avanti, ma non perché non è capace a lavorare, perché noi diciamo, siamo abbastanza quotati come azienda qua in Brianza per il lavoro che facciamo, ma perché non riusciamo più a far fronte alle tasse, a tutto quello. Basta dire l'IMU, per noi è diventata un'altra rata di mutuo sul capannone. Questo è un altro tema che abbiamo affrontato spesso, e chissà la Tares le botte. Mi scrive Pietro Ricciardi sulla nostra bacheca Facebook: io rivendico il mio diritto alla disperazione, non è la pressione fiscale che mi spaventa, quello che mi fa paura è l'assenza di prospettive, l'incertezza nel domani e la certezza, forse l'unica che abbiamo, dell'incapacità di chi ci governa a tracciare un percorso per uscire davvero dallo stato nel quale ci troviamo. Gianni Trovati, Al Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, e buongiorno anche a Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Allora, le prospettive mi sembra di capire, e siamo qua alla questione limitatamente della pressione fiscale, ma in realtà non solamente di quella, è che cosa succede nel 2014 e nel 2015, perché se nel 2013 più o meno lo sappiamo, anche se non completamente, perché mancano 2 settimane all'aumento dell'IVA, lo ricordiamo alla fine, ogni volta, alla fine di questa trasmissione, e finora abbiamo solamente promesse, io finché non vedo non credo, e c'è anche la seconda rata dell'IVA, da cancellare, insomma, ci sono un po' di cose, però allo stato dell'arte, Stagnaro, la realtà è che nel 2014 e nel 2015 la pressione fiscale aumenterà di nuovo. Ma la pressione fiscale aumenterà e aumenterà in misura incerta, per ricollegarmi a quello che diceva lei, aumenterà perché nell'arco degli ultimi mesi di governo l'attenzione, il dibattito politico si è concentrato ora su questioni puramente riconducibili, come si diceva una volta, al teatrino della politica e quindi di scarso impatto sulla vita economica e sociale dei cittadini, un po' perché provvedimenti di politica economica. Ah già, Stagnaro, è vero, oggi si attende il video di Berlusconi, momento decisivo per il paese. Prego, andiamo avanti. Mi scusi, perché ho passato compleanno pochi giorni fa e mi ha restituito 20 anni di vita. Ecco. No, scusi, perché mi ci scaldo un po' su queste cose. Prego, comunque, prosegua. E dicevo, da un lato c'è stata questa politica dominata appunto da cose come il video eccetera, e dall'altro gli interventi di politica economica sono stati prevalentemente riconducibili o a misure microsettoriali di scarsa portata generale, per quanto importanti le detrazioni fiscali per l'edilizia, il riarrangiamento dell'IVA sui prodotti editoriali, interventi sulle agenzie di viaggio, eccetera, tutte cose importanti, buone o cattive che fossero, ma difficile pensare che potessero essere in qualche modo risolutive rispetto ai problemi gravi in cui il paese versa. E per quel che resta si è cercato, come si fa da diversi anni a questa parte, di vivere bordeggiando, di vivere alla giornata, di cercare di stare dentro i parametri a cui la finanza pubblica ci obbliga, aggiustando sistematicamente al rialzo, con l'unica eccezione dell'IMU, anche se transitoria, tutte le imposte che potessero essere aggiustate al rialzo, quindi accise, quindi bolli, quindi l'IVA, che appunto, come è stato ricordato, è in procinto di aumentare, e quindi gli anticipi, gli acconti IRPEF e IRAP, che di fatto non sono più acconti ma sono anticipi quando non prestiti forzosi, eccetera, eccetera, eccetera. In questa prospettiva è difficile immaginare che se questo è l'andazzo possa cambiare qualcosa di significativo nel futuro prevedibile, e se non cambia nulla di significativo, la prospettiva che abbiamo davanti è fatta di un continuo, anche se lento in questo momento, incremento della pressione fiscale in un paese dove la pressione fiscale è già elevatissima, sì, e non è controbilanciata da servizi di pari entità, e un ugualmente faticoso e stancante vivere nell'incertezza, perché noi non sappiamo se tra 2 settimane l'IVA aumenterà o no, sappiamo che se non aumenterà tra 2 settimane verrà rimandata a gennaio, quindi continueremo a non sapere cosa ci riserva il futuro dal punto di vista del, è chiaro che il futuro è sempre inconoscibile per definizione, ma dal punto di vista dell'ambiente normativo nel quale viviamo, e non sapendo in che ambiente normativo viveremo, continueremo a essere prudenti, a non investire, a non attrarre investimenti dall'estero, visto che questo è un altro grande tema di discussione, e quindi a declinare più o meno rapidamente a seconda di come evolve il tempo nell'ambiente macroeconomico nel quale siamo immersi. Allora, adesso vedremo, c'è una legge di stabilità da approvare, ci si prevede dentro un taglio del cuneo fiscale, vedremo di quale entità, dalle notizie che leggo oggi dal Sole 24 Ore, insomma, oggettivamente poca roba, ecco, non quello che ha il Sole 24 Ore, che le notizie ce l'ha, ma insomma quello che sarebbe contenuto nella legge di stabilità. Adesso veniamo a Gianni Trovati, però prima abbiamo già un ascoltatore, lo voglio sentire, Giuseppe da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io volevo portare la mia testimonianza. Avevo un'azienda con una decina di dipendenti, che in questo oggi non ho più, che ho dismesso dalla disperazione, non dalla disperazione tanto dei dati di bilancio, ma quanto alla disperazione proprio delle regole, dell'incertezza fiscale, del non capire come fare in modo corretto le cose, stare tranquillo, e oggi faccio il consulente. Ovviamente questo ha avuto delle ripercussioni su quello che sono stati i miei dipendenti con i quali ho condiviso anni e anni di lavoro. Alla fine ho scoperto che il modo migliore per campare in Italia è quello che io chiamo il nero legale, le definisco nero legale. Ogni ora che io riesco a ritagliare per me stesso e non lavorare, sono 35 minuti che sottraggo allo Stato. Questo è... Cioè, quindi meglio non lavorare. Purtroppo è meglio non lavorare, perché quando lei inizia a lavorare 10, 12, 15 ore, a rischiare con le banche, a rischiare con i fornitori, non parliamo se non la pagano per i problemi di giustizia, per avere un credito, per riuscire a riscuotere un credito, non l'incertezza fiscale del non capire quando lei ha fatto qualcosa corretto o no, perché se sente 5 commercialisti le chiudono il bilancio in 5 modi diversi. A quel punto uno dice, io sto nel mio, e guardi, badi, cercano anche di non farle fare quello con gli studi di settore, che lei non può neanche dire, guardi, io lavoro 20 ore alla settimana, porto a casa quello che mi serve per vivere, sono tranquillo. Questo è come hanno ridotto la classe imprenditoriale in Italia. E non solo, mi scusi Giuseppe, non solamente la classe imprenditoriale, penso, guardi, ai milioni di partite IVA, alle persone che lavorano appunto da autonomi e che oggettivamente da questo punto di vista anche della comprensione fiscale faticano molto. Allora Gianni Trovati, io citavo in apertura, nell'anteprima della trasmissione, questo dato che ieri mi ha quasi commosso, insomma, guardando uno studio di qualche anno fa, mi pare della Cattolica se non sbaglio. Allora, pressione fiscale nel 1960, pieno boom economico, al 25,7%, e nei 20 anni successivi, fino al 1980, non ha mai sfondato quota 30%, tranne nell'80 che arrivò al 31,1%. Adesso, e parliamo di quella ufficiale, naturalmente, di quella dell'Istat, adesso siamo intorno al 45-46%, e però il tema resta sempre quello, cioè al di là della pressione, i servizi offerti e appunto i margini di incertezza che ti trovi ad affrontare. Sì, diciamo che vabbè, rispetto agli anni 60 eccetera, una evoluzione della pressione fiscale c'è stata in tutto il mondo occidentale. Noi ci siamo messi di particolare impegno in questo caso e abbiamo raggiunto un primato, direi, mondiale che in altri campi purtroppo non riusciamo più a raggiungere. A questa incertezza fiscale, appunto quella ufficiale è tra il 44,5 e il 45, quella reale poi, cioè togliendo il sommerso e il nero, raggiunge il 54-55%. Confindustria settimana scorsa. Questa pressione fiscale record, giustamente lo citavi tu all'inizio, è accompagnata da una incertezza costante che ha i suoi costi e ne ha parecchi. Se noi pensiamo a una cosa banale come la tassazione sulla casa, che in tutti i paesi, diciamo, sviluppati esiste ed è abbastanza stabile, noi nel 2011 abbiamo pagato in un modo, nel 12 in un altro, nel 13 stiamo attendendo di capire, anche se siamo ormai a settembre inoltrato, quale sarà il consuntivo, ma sappiamo già che nel 14 pagheremo in un altro modo ancora. Io sono pronto ad aprire le scommesse con gli ascoltatori che il 15 sarà molto diverso dal 14. Ora, questa grande fantasia, questa grande elaborazione di riforme fiscali, noi tra l'IMU, la TARES e così via abbiamo, diciamo, soddisfatto il fabbisogno di riforme fiscali di tutta Europa per un secolo. E anche il fabbisogno di acronimi, volendo. Sì, cioè, la TASI, la TARI, potrei andare avanti. Questa cosa qui, oltre a farci parecchio arrabbiare, perché appunto siamo, questo è anche questo è un unicum che a settembre inoltrato, al giorno 17 di settembre del 2013, noi non abbiamo un'idea se non vaga di quello che è il nostro presente fiscale, non il futuro fiscale. Allora, se voi vi ricordate, già negli anni scorsi si arrivava alla legge di stabilità, si facevano le riforme fiscali per l'anno successivo e già non ci si riusciva, perché poi i primi mesi erano tutto un caos di applicazioni e di interpretazioni diverse. Noi abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo inaugurato questa bella prassi delle riforme in corso d'anno, cioè riformiamo lo stesso anno che stiamo vivendo, con una esplosione di confusione. Costi dell'incertezza fiscale. L'anno scorso, anno di debutto dell'IMU, con tutti i problemi che ci ricordiamo e anche quelli che non ci ricordiamo più, costò, secondo un calcolo che abbiamo fatto, che nessuno ha smentito, ma che forse era addirittura prudente, ai cittadini, ai proprietari di immobili di ogni tipo, 2 miliardi di troppo. Perché? Perché il gettito dell'IMU influiva sui tagli dei comuni, quindi tu comune hai 110 di IMU, quindi ti taglio 10 perché faccio il confronto con l'anno scorso, c'era tutto un meccanismo che lasciamo perdere. Il problema qual è? Che le stime di gettito dell'IMU ufficiali del Ministero dell'Economia sono cambiate 6 volte nel corso dell'anno e l'ultimo dato è arrivato al 15 di ottobre. Allora tutti i sindaci così erano... diciamo i terminali di questo afflusso costante di numeri sempre diversi che cambiavano le risorse, chiaramente quando tu non hai idea di che risorse hai da qui a fine anno, cosa fai? Alzi le tasse per crearti un parafulmine, un paracadute in caso di sorprese, che sono sempre all'ordine del giorno. Il 2012, quindi, il caos fiscale costò ai cittadini almeno 2 miliardi in più. 2012, che ci sembrava terribile, era il paradiso rispetto alla situazione del 2013, perché qui le incertezze sono diciamo totali, complessive, almeno per quanto riguarda il fisco locale, ma non solo. Questo cosa vuol dire? Che questa appunto produzione di continui interventi e anche interventi che si incrociano con annunci, per cui fuori dagli addetti ai lavori non tutti sanno cosa è stato abolito, di cosa invece è stata solo promessa l'abolizione e soprattutto in cambio di che cosa, perché le tessere del mosaico sono talmente tante, talmente in movimento che nessuno è più in grado di dominarle. Tutto questo lavorio, oltre appunto a costare tantissimo in incertezza di prospettive, perché la telefonata dell'imprenditore era chiara: il mio problema non è per adesso quello del conto economico, perché lavoro, perché sono quotato nella mia zona, bla bla bla, il mio problema è la mancanza assoluta di certezza e di visibilità. Questa cosa, che non entra nei parametri di Maastricht perché non è cifrata, in realtà ha un costo che forse è superiore diciamo così ad alcuni degli incrementi fiscali degli ultimi tempi. Ovvio, voglio ricoinvolgere Caggiano a questo punto, che poi ci saluterà. Caggiano, il punto è proprio questo: i ticinesi vi offrono stabilità, vi dicono, cioè, al di là, come dire, della pressione che è più bassa, eccetera, eccetera, però vi dicono: ragazzi, voi state qua per 5 anni, mi pagate tot tasse, non vi rompo le scatole e poi rinegoziamo. Questo è un po' il concetto, perché di storie così come la vostra ne abbiamo raccontate un po'. Sì, diciamo che io, non essendo ancora andato a questo convegno, non ho ancora bene in mente quello che sarà. Diciamo una cosa, che se l'Italia è talmente confusa che non può dare a noi una certezza, noi la andiamo a cercare altrove, come ho detto, con l'azienda, non con la famiglia, perché come ho detto io mi sento italiano al 100%, però la mia azienda è mondiale, io lavoro in tutto il mondo, posso lavorare dalla Svizzera o dall'Italia. Dovrò decidere solo nei prossimi anni se stare qui in Italia, se ci sarà cose concrete da parte dei nostri politici, o andare all'estero. Tutto certo, qua. I suoi dipendenti immagino ben contenti di fare i frontalieri, tutto sommato, no? I miei dipendenti sono come una famiglia per me, quindi dove vado io vengono loro. Perfetto, chiarissimo. Allora, prima di andare in pausa e poi sentire qualche altro ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24, una breve risposta all'ascoltatore che mi scrive via SMS. Spezia si ricordi che Berlusconi è il leader di un grande partito e che lo vogliono ingabbiare. Non faccio il saccente, dico che è un mese e mezzo che ci stiamo avvitando, il dibattito politico si sta avvitando intorno a questa vicenda, e come sente ci sono 178 imprenditori che decidono di andare ad un incontro oltre confine per decidere di trasferire la loro azienda. Allora capite che non è una questione, sì, si scherza sul video, si scherza scherza se vogliamo su questo, si parla della situazione politica, però capite che il tema è un altro, insomma, no? C'è un paese da rimettere, no? da rigirare, ecco, per usare una metafora fin troppo abusata in queste ore. 9 in punto. Qualche risposta a qualche tweet che mi arriva. Allora, Paolo che mi scrive: ricordi che l'Italia è nell'euro e la Svizzera no. Va bene, ricordiamo che la Svizzera non è nell'euro, ricordiamo anche quanti imprenditori si stanno trasferendo in Austria, che è nell'euro. Adesso non è per fare discorsi, perché come capisce il problema a questo punto è un altro. Vecchia idea, caro Matteo Costalunga, che mi scrive su Twitter: attacchiamo la Svizzera con lo scopo di perdere la guerra e farci governare da loro. Vecchia idea, mi ricorda Simone Monetti, e fa benissimo, perché non l'ho ricordato in apertura, che siamo in presenza comunque, con tutto questo giro di provvedimenti, di due aumenti, uno prima dell'estate e uno con il decreto scuola, delle accise sugli alcolici e non solo, per coprire, che andranno a regime 2014-2015, quello che ci pare, ma ricordiamoci che anche quelle sono imprese che lavorano nel nostro paese, quindi insomma non è poco. Poi l'ultima è arrivata proprio di botto, nel senso che si è detto 400 milioni di euro stanziati per la scuola, e poi tra le righe è arrivata una dichiarazione del ministro Carrozza che diceva: le copriremo prevalentemente con l'accisa sugli alcolici. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo qua, prego. Ah, sì. Allora, io avevo chiamato perché in questo momento si sta considerando la Svizzera come alternativa alle imprese in Italia, mentre non si considera che in Europa, al di là dell'Irlanda, esistono altri paesi, non diciamo a fiscalità privilegiata e nemmeno paradisi fiscali, ma che però magari ci si avvicinano un attimino. Io lavoro nel settore della logistica. Abbiamo una piccola filiale in Finlandia. 20 giorni fa mi è arrivata una notizia che, per quanto concerne l'imprenditore che ha un investimento in Finlandia, è un'ottima notizia, che il governo finlandese, a partire dal 1 gennaio 2014, abbassa le tasse sui redditi da impresa dal 24 al 20%. E lei capisce che, e qui parliamo... Sì, diciamo, Paolo, non è, trasferirsi in Finlandia non è agevole come trasferirsi in Svizzera per uno che sta, per esempio, nel Comasco, anche solo in Italia in genere, però insomma capisco che possa essere interessante. Qual è la conclusione? Che cosa voleva dire? La conclusione è che gli altri paesi europei, euro, che vivono nell'euro come noi, hanno delle politiche fiscali nei confronti dell'impresa diversi dall'Italia, ma non diversi, fondamentalmente diverse, cioè non trattano l'imprenditore come un evasore a prescindere, come qualcuno che comunque va punito, trattano l'imprenditore come qualcuno che va incentivato a fare impresa, a creare lavoro e a pagare le tasse, non solo direttamente, ma attraverso il reddito dei lavoratori che ci lavorano nell'impresa. Che devo dire, Paolo? Quindi c'è concorrenza fiscale, e questa è anche una risposta all'ascoltatore che ci scrive: dica che la Svizzera non è nell'euro. La risposta anche a quell'ascoltatore. Lorenzo da Roma, buongiorno. Buongiorno Simone. Io volevo semplicemente dire questo, che secondo me fino a che si parlerà di aumento delle tasse, proporzione rispetto agli altri paesi, e poi si entra nello specifico, si sarà sempre distanti dal problema. Il problema di fondo è perché noi paghiamo tutte quante queste tasse, e qual è la differenza tra pagare le tasse per avere dei servizi, che è cosa buona e giusta, e pagare le tasse per coprire un debito catastrofico che è stato generato da una classe politica non incompetente, ma probabilmente complice di un altro tipo di logica, un altro tipo di sistema, e che sta dando prova proprio in questi mesi di non voler dare delle prospettive, di non voler incidere, perché basterebbe che qualsiasi dei nostri imprenditori che sono famosi, che lottano e che sudano in Italia per mantenere un minimo di vivibilità e di sostenibilità, andassero lì per capire immediatamente quali sono le cose che devono essere cancellate. Basterebbe non avere dei padroni da altre parti, basterebbe non dover rendere conto di quello che cosa stai dicendo, Lorenzo, mi scusi, ma cosa stai dicendo? Cosa sono i padroni da altre parti? Mi scusi. Io, la mia lettura è quella che l'attività che viene fatta attualmente in Italia in termini politici è un'attività che non è pensata per gli italiani, ma è pensata per assecondare una volontà accentratrice dell'Europa nei nostri confronti. Perché lei mi deve spiegare per quale motivo noi non riusciamo come classe politica dirigente ad intervenire su questioni di cui si dibatte da decenni, quando abbiamo due schieramenti che potrebbero tranquillamente nell'alternanza farlo. La risultante, io vedo i fatti sono che mio padre quando era negli anni 80 godeva del boom economico e oggi deve decidere se pagare gli stipendi o pagare le tasse. E questa è una follia. Allora Lorenzo, l'ultima parte del discorso la capisco. Stagnaro, io propendo più per l'insipienza che per il complottone, in tutta sincerità. Sì, non credo che abbiamo bisogno di immaginare un complotto, abbiamo semplicemente bisogno di osservare le inerzie del sistema. È chiaro che quando uno ha un pachiderma come la pubblica amministrazione italiana e interviene in maniera, come dire, col cacciavite, il pachiderma continua a crescere. Se vuoi che il pachiderma diminuisca di dimensione, devi metterlo a dieta, devi faticare per farlo stare a dieta. Per faticare bisogna avere, come dire, un leadership e una visione d'insieme dei problemi. Se posso, vorrei fare un esempio soltanto, che è però istruttivo, ed è quello della Robin Hood Tax, una tassa relativamente popolare, perché ci riporta alla mente Robin Hood, Lady Coca e tutte queste cose qua, perché è stata introdotta nel 2008 per colpire petrolieri cattivi, eccetera, eccetera. Al di là delle sue ragioni o non ragioni, secondo me non ragioni, nel momento in cui è stata introdotta, inizialmente la Robin Tax era un addizionale di 4 punti percentuali sull'aliquota IRES, quindi sull'imposta sul reddito d'impresa, e si applicava a un numero importante ma limitato di imprese operanti nel settore dell'energia. Venne introdotta da Tremonti. Nell'arco degli anni c'era bisogno di un po' di soldi a destra, aggiungi un punticino di Robin Tax, c'era bisogno di soldi a sinistra, aggiungine due. La Robin Tax è diventata una cosa che non è più di 4 punti, ma è di 10 punti e mezzo, e riguarda non più un numero limitato di imprese nel settore dell'energia, ma tutti i soggetti nel settore dell'energia che abbiano un fatturato superiore a 1 milione di euro, quindi sostanzialmente tutti. Di fronte a una cosa del genere e di fronte alle ripetute dichiarazioni sul fatto che quello energetico è un settore strategico, dobbiamo attirare investimenti, eccetera, c'è da restare allibiti, perché, come dire, o quando si dice che l'energia è un settore strategico si racconta una balla, oppure quando si alzano le tasse così perché per soddisfare un'esigenza di cassa di breve termine, non ci si pone minimamente il tema delle conseguenze. E quello che ho detto per la Robin Tax vale per mille altre cose, dall'IVA all'IMU, che appunto, come ricordava Trovati, viene messa, tolta, alzata, abbassata e così via, fino a dove ci conduce la fantasia. In tutto questo quello che manca è, primo, una forte determinazione politica a tagliare la spesa con l'obiettivo di tagliare le tasse. Secondo, a fronte di una forte determinazione politica che non c'è, la volontà di tradurre in pratica queste misure, ben sapendo che ogni spesa che tagli, ogni euro di minore spesa pubblica, vuol dire che c'è qualcuno che si arrabbia perché è un euro in meno di stipendio o un euro in meno di appalto. Però non si possono immaginare delle vie d'uscita che ci consentano di non scontentare nessuno. La scelta è uccidere il paese di tasse o far arrabbiare coloro che fino ad oggi sono stati, nel torto, nella ragione, i beneficiari della spesa pubblica. Io vorrei far arrabbiare i beneficiari della spesa pubblica. Remo, e non ne dubitiamo. Remo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, no, io mi... No, non si riallaccia perché prende male il cellulare. No. Sentiamo Fulvio d'Ancona e poi la recuperiamo, Remo, non si preoccupi. Fulvio, buongiorno. Prego. Io le volevo dire, mi occupo di consulenza, diciamo, di ristrutturazione aziendale, e mi riallacciavo al discorso che diceva il giornalista. Oggi le aziende che rimangono in Italia sono costrette a rimanere in Italia, vedo 4-5 aziende, chiaramente piccole e medie imprese, 50-60 dipendenti, se rimangono in Italia perché non possono andare via. Chi può andare via già è andato via e quindi il sistema ormai è crollato, non ce lo dicono, almeno questo è quello che io vedo, però stare a contatto ogni giorno con gli industriali, con i piccoli e medi imprenditori, è dura, ma soprattutto chi non chiude perché non può chiudere, o comunque chi non delocalizza. La situazione è questa, è drammatica, e purtroppo è così. Quindi sì, il problema Svizzera, il problema Finlandia, sappiamo bene tutte queste cose, ma il problema è che comunque veramente ci vorranno 10-15 anni per forse per riprendere, perché le aziende che comunque chiudono o che comunque sono piene di problemi, di debiti, eccetera, non hanno sbocchi nel breve, nel medio periodo. Cioè questo, ecco, non ci vuole un genio dell'economia per capire sta roba qua. Solo questo era l'intervento. Grazie Fulvio per il suo intervento. Noi ci prendiamo una pausa, ci ritroviamo tra un attimo dopo la viabilità. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo. Allora, riprendiamo un attimo con Gianni Trovati, quella del Sole 24 Ore, che aveva una piccola chiosa su tutto quello che si è detto e col quale però poi volevo anche parlare un attimo di tasse locali. Insomma, sta facendo una grande battaglia il Sole 24 Ore in questi giorni su questo federalismo malfunzionante che ha sostanzialmente moltiplicato centri di spesa invece di ridurre le spese. E questo secondo me è un tema centrale nell'ambito anche dei ragionamenti sul taglio della spesa. Però la chiosa alla questione generale, Gianni, qual era? Sì, le due cose peraltro sono collegate. Prima abbiamo ironizzato sul video di Berlusconi, che è interessante più o meno come la data del congresso del PD. Così facciamo pari, par condicio. Sì. Il problema è questo: sappiamo tutti, ce l'hanno ripetuto gli ascoltatori prima, qual è la ricetta, lo diceva bene Stagnaro, qui bisogna intervenire su questa massa di spesa pubblica. Ricordiamoci però la vicenda dei cosiddetti esuberi della pubblica amministrazione. La spending review di Monti ha chiesto a tutte le pubbliche amministrazioni di trovare le eccedenze in una macchina da 2 milioni e 500 mila persone, perché le amministrazioni locali erano fuori. Sono state trovate 7 mila eccedenze su 2 milioni e mezzo, quindi un tasso di efficienza teorica che la Microsoft o la Apple se la sognano, quello raggiunto dalla pubblica amministrazione italiana. Queste 7.000 esuberi non sono ancora stati gestiti un anno e mezzo dopo. Perché? Perché per fare la riforma, una riforma in grado di ridurre la spesa pubblica, bisogna riorganizzare la macchina amministrativa, che è una cosa molto complessa, molto complicata, che impiega anni, nel senso che io adesso governo, mi metto, faccio un piano che non può essere, gettare le prime risorse fra un mese, fra due mesi. I primi risultati io li vedo l'anno prossimo, se va bene, i risultati veri li vedo in 5 anni. È la cosa da fare. Il problema è che se ogni settimana noi abbiamo 2-3 emergenze, una volta la TARES, una volta l'IVA, una volta l'IMU e così via, le coperture per coprire appunto queste finte emergenze non possono essere trovate con la spending review, perché la spending review non ti dà la copertura in una settimana. Che cosa ti dà la copertura in una settimana? L'aumento dell'accisa, l'aumento degli acconti e così via. Così il quadro, viene in equilibrio o eventualmente il taglio lineare un taglio lineare, però poi c'hai i ministri che ti rompono le scatole, quindi andare dai contribuenti è sempre la strada più sicura da questo punto di vista. Ed ecco spiegato perché c'è questa pressione fiscale, che anche se appunto lentamente, come dicevi tu prima, però a volte anche in maniera più accelerata, alla fine dell'anno scopriamo che è sempre un po' più alta rispetto all'anno prima. Il federalismo è proprio figlio di questa roba qua. Il federalismo è una riforma, piaccia, non piaccia, questo è tra virgolette secondario, una riforma epocale. Sto parlando in teoria, cioè tu prendi uno Stato che era centralizzato, lo rendi federale. In tutti i paesi razionali questa cosa qui si fa, con un programma che duri almeno 10 anni. Noi negli ultimi 10 anni di federalismi ne abbiamo fatti 3. Il primo è stato quello approvato a fine 2001 da un centrosinistra ormai in agonia che voleva spacciarsi per federalista perché all'epoca era di moda e fece la riforma del titolo. No, meno male che l'hai detto tu, perché mi chiedevano, per chiarezza lo dica, chi ha voluto quella raffazzonata modifica del titolo quinto chiamata federalismo? L'ha voluta il centrosinistra, così lo diciamo. Il centrodestra tutti contenti. Nei 10 anni successivi ha fatto di tutto tranne che modificare, diciamo, quel punto lì, che ha creato, diamo un numero così ci capiamo, negli ultimi 10 anni regioni e Stato si sono confrontati in Corte Costituzionale 1674 volte. In 10 anni il 37% delle sentenze di Corte Costituzionale è stato dedicato negli ultimi 10 anni ai conflitti di competenza fra Stato e Regioni, una cosa che ma nemmeno su Marte. Dopodiché si è fatto un altro, ci si è dimenticati di quel problema lì, di un titolo quinto che si inventa le competenze concorrenti anche su materie, diciamo, che in tutti i paesi, anche quelli più federalisti, sono statali, tipo le grandi reti di comunicazione sono statali dappertutto, perché se sono grandi, diciamo, sono più grandi della Lombardia, dell'Umbria, del Veneto. Di questo non si è parlato, si è fatto un abbozzo di federalismo fiscale. Ancora prima che ci fossero i primi provvedimenti attuativi, si è cambiati drasticamente rotta e c'è stata una ventata, diciamo così, centralista nel tempo dello spread più alto. Il risultato è stato un bel pastrocchio che ha tasse locali di nome e statali di fatto, tasse statali di nome e locali di fatto, perché l'IVA, che noi pensiamo sia statale, per il 54% va alle regioni per pagare la sanità. Quindi è una tassa localissima, diciamo così, federalistissima. O quantomeno in maggioranza, esatto. In maggioranza locale. E diciamo, nessuno, come dire, che non sia appunto addetto ai lavori, sa quando paga una tassa. Noi non sappiamo se la stiamo pagando al sindaco, al presidente della provincia, al presidente della regione, dell'autorità d'ambito, del consorzio del bacino imbrifero montano, della regione o dello Stato, perché abbiamo, non è vero, 3 livelli di governo, ne abbiamo una dozzina, insomma. Tutto questo perché? Perché le riforme serie, qualunque esse siano, impiegano 10 anni. La Germania, che sta andando bene, la crescita, eccetera, sta andando bene per gli effetti applicativi delle riforme di Schröder, centrosinistra, che la Merkel si è ben guardata da razzoppare, ritoccare, cambiare. Noi di riforme ne facciamo 3 a legislatura, perché abbiamo 3 governi a legislatura in media. Una va in una direzione, l'altra va in un'altra, nessuna viene attuata, il risultato finale è una stratificazione. Questa stratificazione che c'è nelle riforme c'è anche nel fisco. Evidentemente. Paolo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Non volevo solamente dire, io sono un agente di commercio da 20 anni a questa parte, in 20 anni abbiamo passato vari governi, però se continuiamo noi che andiamo a votare, ad accettare che i partiti che vengono per la maggioranza propongano comunque sempre personaggi che da 30 anni sono nel giro del governo e che ci hanno ridotto in questa situazione, la colpa io credo sia anche nostra, culturale un po', dell'Italia, degli italiani. Quindi faccio 1+1 e dico dobbiamo impegnarci ognuno di noi a cambiare questa situazione, perché a Roma non la cambieranno mai, gli va bene così, gli va bene lo status quo, gli va bene rimanere nel loro sistema, partiti, politici, magistrati, tutti quanti, siamo solo noi che possiamo cambiare qualcosa, nessun altro. Grazie Paolo, sentiamo brevemente Davide da Vicenza, ce la fa stare in 20 secondi Davide? Sì, guardi, 20 secondi velocissimo, intanto la ringrazio l'opportunità. Ma il problema delle tassazioni è proprio la spesa pubblica. Se uno entra in un qualsiasi ufficio pubblico, dalla motorizzazione a tutto quello che ne consegue, si rende conto che le tasse in Italia servono per mantenere un assistenzialismo statale. È per quello che i partiti non ci mettono la mano, perché chi ha coraggio a dare a toccare un bacino elettorale del genere? Grazie Davide anche per il suo intervento, bravissimo perché è stato nei 20 secondi. Io ringrazio Gianni Trovati del Sole 24 Ore, Carlo Stagnaro, che è direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, per essere stato con noi, Laura Fagin in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 13 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.